Cici. Attenzione, California, California, Cici, cambio. Cambio. Attenzione, canale 10. Attenzione, binario 10, ascolti questa piccola modulazione, capo a capo. Oh, Cialecco, ho un coso, c'è un reverbero. Caricata e scala di positivo, frate, tutto sotto controllo qua, capo. C'è un reverbero, fra, non ce l'ha, ecco. Ma come modulazione, come, va bene, capo? È forte la modulazione, però... non mi piace questo reverbero, regolaglielo. Guarda, adesso è normale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Così già va bene, così già è forte, va benissimo. Sì, questa arriva la modulazione, copio. Così c'è già il reverbero. Che bello. Così come, come modulazione, va bene? Io l'avrei lasciato così, fremmito. Dicio, così va bene, comunque, dai. Sì, fa un passaggio lungo, perché un po' sotto c'è. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova radio, 1, 2, 3. Sì, appena abbasso. Guarda adesso, com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pure l'altra. Alla radio forte, va bene. Sì, va bene. Cava, cava. Ma questo qui qua è quello che ho preso su. Cava di positivo, gli ho adattato il microfono della Midland che c'avevo qua. Ho capito. Cioè, va bene, va bene. Cava, cava. E c'avete quante watt, da? Quasi 20 watt modulati, da. Però l'eco pure regolato, secondo me. Magari si può regolare. L'eco? Perché entra il reverbero, non è un eco, è un reverbero, fa... A me non mi piace, preferisco lasciarlo così. E infatti, esce più bene. Gava, gava. C'è anche il bip secco. Cosa? C'è anche il bip secco. E vabbè, dai. Se va bene lo lascio così, non ne tocco io. Se no c'è bisogno aprirlo e vedere se si può regolare la scheda. Magari puoi farlo. Ti ascolti con le cuffie da un altro apparecchio. Perché c'ha questo eco troppo lungo, capito? No, non è eco, no, è un reverbero. A me non mi piace così. No, infatti, va meglio così qua. Meglio senza nulla che avere il reverbero. Mi sa che lo lascio così che va meglio. Esce forte lo stesso. Esce forte. E la radio va bene. Cappa, aspetta. Oh, oh. Cambio. Vai, fra. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio. Ma sai che prova a regolare l'eco, dai. Arrivato che? Ehi, già va bene comunque, dai. Dopo volevo regolargli l'eco dalla scheda. E apri, dove lo regoliamo? Prega, lo apro un attimo, dai, tanti 5 minuti. Guarda un po' Gianni, com'è adesso, se va bene. Oh. Fa un passaggio lungo di... Cambio! Cambio! Passo a chiudo, capo capo! No, solo cambio di... Cambio! Coda non ce n'è! Non ce n'è di coda, ci vuole ancora un po' di coda. Andiamo dove mi hai scritto al telefono. Tu! Dimmi già! Andiamo dove mi hai scritto al telefono. Nel canale che mi hai scritto al telefono. Capo. Hola, 2, 3, prova. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, attenzione, attenzione. Hola, hola. Thank you. sì, tutto. Chi è costui? E chi può essere? Ah, boh, se parli così non ti capisco. Come così? Tu sei normale. No, sei Marco Condo, già ho capito chi sei tu. Io sono Corruice. Sì, no, come me l'hai detto, ho detto, va, su, se non male. C'ha la voce ancora incartata dall'assopimento. Ma l'altro è un segnale tipo 8, ci sarà natalino, può essere. Boh, non lo so, è che stavi parlando la voce bassa bassa, capito? Chi è? Sono timidi, non vogliono entrare. Così sono. E io mi stavo facendo una bella chiacchierata con Franco California. Stavamo regolando un apparecchio che ha comprato sul continente. E poi niente. E poi ho dovuto uscire per andare in campagna. Lo so. Ma senti anche tu questa specie di portante? Specie di portante? Non vedo nulla io. E ha fatto... No, sarà qui il ricevitore mio. Ha ricevuto un segnale basso in VHF. E senti qua. Bene, avanti. Avanti tutti assieme. A proposito già, ma Carlo è scomparso dai radar? No, Carlo l'ho sentito quando è ieri. Ieri è entrato per salutare, ma stava facendo roba, mi ha detto che ha avuto un po' di problemi e che non stava pensando per quello, che comunque già si faceva risentire. Aspetta, io non lo sento da un mese e mezzo, forse due mesi, Sì, sta andando entrando poco, avrà roba da fare in casa, roba del genere. E la moglie l'aveva messa a pitturare, poi non lo so. La moglie prima gli dai l'unghia, si pina il braccio, prima pitturare, poi dice già che ci sei fai questo, già che ci sei fai questo, e poi ti poni sotto e non esci più. E così è stato, infatti. Prima ho fatto la cameretta della figlia che doveva arrivare, e poi la faccio fare la cucina, però penso che abbia finito di quello. Io sono tappato a casa per la temperatura più alta, questa è niente, ancora deve salire, va. Oggi ho detto non esco, ieri lo stesso, e domani siamo costretti a uscire per commissioni più importanti. E vabbè, e farà molto caldo fine settimana, molto. E io sto aspettando gente, adesso che ore sono? Le 5 e mezza, adesso le 6 e un quarto devo chiudere. Mi ascolti bene, Marco? Potrei dire sì, mi pare che sia pure fondo scala, tipo. Certo, con lui se sto uscendo, liscio. Allora, 9:25. Però anche la modulazione è come se parlassi tipo così, tutto vicino al mic. Ma se sei tu non sei uscito adesso? Hola. Come sei se te va a te, se dai. 9:25, dai, non toccare nulla comunque, già andrà bene. Già andrà bene, non voglio stare a fare toccare avanti e indietro, già andrà bene. Che avanti? Gianni. Ehi, avanti. Controllati quell'apparecchio, perché Marco parla e tu gli parli sopra. Ciao Luca. Ciao. Due volte ha parlato, due volte ha parlato sopra Marco. Probabilmente hai problemi con quell'apparecchio. Controlla. No, c'è una specie di portante, credo, Luca. Infatti, lo sento anche. Ma ti ha parlato anche sopra, Forse c'è la portante, magari più vicino, non lo so. Sì, allora quella che diceva Gianni è quella, si sente una specie di... Allora avevo ragione io. Avanti Luca, che problemi c'ha? È benissimo, non c'è nessun problema. Ah, siccome per due volte gli hai parlato sopra, parlava lui, capito? Io ho pensato che il problema era la testa. No, ma un po' Gianni ogni tanto lo fa, magari mentre parli si distrae e riprende, no? Un paio di volte l'ho notato anch'io. Anche se non sa cosa va. Sì, vedi, questo, ecco, questo era il disturbo mio, vedi. Ho visto, Luca, ho visto il video della succedulle su chiocciolo sulla pelle con la spiegazione, poi anche il piatto rotante, già vedo tutto. Io non rispondo ogni video, se no sarei sempre, sai, me ne mandi tu, me ne manda un altro, me ne manda un'altra cosa, devi stare sempre ok, ok, ok, bello, bello, bellissimo. E mandrò, è Marco. No, davvero, perché sai, magari te ne mandi a uno, te ne mandi... Oh, balle con questo... Asco, lockout, tutto, ecco. Sì, se no dovevi stare sempre con lo smartphone in mano, già a mandare... a rispondere, capito, ogni singola foto, ogni singolo video, ogni singolo messaggio è lungo. È Natalino? È ancora dormito, eh? Natalino... ha perso tutto l'entusiasmo di entrare e via. Oh, ma perché è successo altro nuovo ancora? Stavo parlando con me, gli ha telefonato, non gli ha manco risposto, aspetta, buh. Gli ha telefonato, mi ha detto io adesso devo spegnere perché gli accordi sono così che allora che guardo il telegiornale devo spegnere. Poi il discorso ha tirato un po' più alla lunga, ma non di tanto, e ha avuto subito la telefonata. Ascolta, ma con lo smartphone non si può mettere il numero in lista nera, per cui lui chiama ma non ti squilla. Lui sente come occupato, no? E a te non ti squilla nemmeno, perché è una rottura continua, è quasi stalking me. Oh yeah, lasciami lì. Io ho paura che dopo che faccio il lavoro di nuovo li metta a mano di nuovo quello lì. Ha detto che se fa così, io ha detto che chi saluta non si raggiunge. Se l'avrebbe temuto a Natalino, stai tranquillo che non gli avrebbe mai telefonato. Capito, non gli avrebbe mai telefonato a dire guarda che mi stai turbando, spegni, e allora domani mi ha rifiutato. Ma va, prova a telefonarmi, a vedere. Sì, lo sai cosa deve fare, andasse da quella zona e basta, se vuole vivere tranquillo, se no deve andare da lì, e boh, è inutile che sta lì tanto, si danno un delinquente dentro un asso. Ma io dico, se sei in regola, no? C'hai l'omologata, c'hai, cosa la devi, a chi devi chiudare, no? Ha aggiunto questo. Ha detto, vai, chiama e controlli, fai se ti piace, e non mi zecca più, non mi chiama più me. Ma domanda, ma quando gli ha fatto danno già all'antenna, no? Che aveva scorticato il cavo, che aveva messo quel palo, che aveva tolto i tiranti, che gli aveva storto il palo, l'antenna, ti ricordi con quel ferro messo... Ma lui la denuncia l'aveva fatta di danneggiamenti o non l'aveva fatta? Sa di no. Ehi, allora buonanotte. Se ti fanno danno e non fai nemmeno niente, quello che è chiaro, vede che a campo libero e farà quello che vuole quando vuole, vabbè. Auguri. Perché capita, quanto ha compreso, capisci, abbia dato riso, non vuoi buon assai a Tantarallo, a Natalino, che pare che ha compreso, che sei mancante, che sicché se lo devi dire buono. Te l'ho detto, la spedizione punitiva era forse anche più economica e risolutiva. E tu ti comprometteresti andare a picchiare un'altra persona, passare casini così? Io non lo farei, sinceramente non lo farei più, l'ho fatto da ragazzo, una volta siamo andati da Don Diego perché stava parlando male al baracchino, siamo andati tutti quasi in greve, ci ha chiamato i carabinieri, già ne è mato, mi ha dato un uomo e tutto canto, lascia perdere. No, non di persona, però uno senza dire niente in radio, no? Di fare, di non fare, io vabbè lo dico così scherzando, lui non deve dire nulla, cercare una persona con le mani d'acciaio che sia utente, uno sconosciuto, un capito sconosciuto del tutto a lui, basta. E da voi ci sono andati, non sono fatto nulla, però intanto, capito, passi così. Gianni, Gianni, Gianni. Vedi che non sento, aspetta che mi chiama mamma. Sì, ti ha parlato sopra di nuovo per tutta la cosa, Marco. Gianni, controlla qualcosa lì. Stai parlando sopra Marco. Gianni, cambia apparato, Gianni. schiava che va. Rieccomi. Ehi, ho già detto a Gianni, boh, ma forse non mi sente. Deve cambiare apparato perché continua a parlarti sopra, capito? Infatti tu, quando hai iniziato a parlare, 2 secondi dopo ha iniziato a parlare anche Gianni e stavate parlando insieme. Boh, ma Gianni ci sente? Cioè, sta ricevendo o no? Secondo me ha problemi con quell'apparato, perché questa è la terza volta che lo fa. Capito? Proprio come che non ti senta, a me, capito? Boh, dovete cambiare apparato, o di controllarlo, perlomeno quello, Sì, è strano però, è come che la ricezione si lenziasse, non sapevi, prova già. E non risponde. Non risponde perché sto facendo altro, stavo cambiando apparecchio. Sì, ma tu hai riscontrato qualcosa con quell'apparato di prima? No, praticamente è come se mettessero la portante quando parli. Magari c'è una portante, magari la sente Gianni e Luca no. Deve essere proprio stato capito, perché qua io ho parlato anche con l'apparecchio grande, non ce n'è portante, capito? No, ma poi ti sentivo chiaro, ma tra te, come iniziavi a parlare subito, poi parlava Gianni, come che non ti sentiva per niente proprio, capito? Sì, comunque c'è una portante lua, quando riprendi tu sento 2 tocchi, fa tac, tac. Boh, sì, non è vero portante, o è vicino a Gianni, vicino a voi, No, non la puoi sentire perché è su di te. Su di Gianni non so se la metta, perché Gianni è molto forte di segnale. Insomma, tiriamo le somme, la 27 è finita e credo che ormai sia la volta buona. Ma no, questa adesso è la cosa che d'estate vanno tutti al mare. Sì, va bene, l'estate è così, l'inverno non entra nessuno perché sono tutti ai centri commerciali, c'è sempre una scusa, non entrava nessuno. Ah, anche tu l'hai capita. Che giornate. Fatevi tutti l'esame di coscienza, io ci sono ogni giorno, eppure un biglietto non entra. No, comunque è vero, io sto entrando poco, ben poco, perché magari mi dico altro, sto sempre tirando con una cosa o con l'altra, Gianni già lo sa. Vabbè, anch'io c'ho altre. Io ci do verso le 6:15 canto, poi mollo il canto e accendo, sempre, tutte le sere. Ma c'è cantare, senti in radio? Io canto però poi in radio entro, tanto non c'è nessuno, sino alle 6:30 non viene nessuno. Ma basta chiamare. Vabbè, io accendo, me ne sto fuori, poi entro, magari 2 cose importanti, 2 bip, bello che non risponde nessuno, sono in terrazzo, poi magari sono in terrazzo e sento Giulio che mi chiama e allora gli mando il messaggio su WhatsApp che sono in terrazzo facendo. Tu è raro che entri a fare un QSO, ogni tanto stacchi, entri, e non entrare nessuno, molte volte ti fai lavori, entri, poi dici adesso stacco perché devo fare una cosa, stacco perché devo fare l'altra. Una cosa è entrare e fare un QSO, un'altra cosa è ogni tanto dare un colpo importante e fare la battuta e via. Io poi mi assento senza qualcuno che non mi piace, sinceramente no, non entro più, capito? Non mi ha fatto proprio nulla, quindi si passò. Così che spengo e me ne esco fuori. E vi lascio a voi. Non sentivo una cosa diversa, per esempio certi giorni che magari io proprio non potevo rispondere, ma qua era acceso, sentivo che adesso chiamava Natalino, no? Attenzione 10, niente. 2 secondi dopo magari chiamava Gianni, attenzione 10 e niente. E magari anche una terza persona chiamava pochi secondi dopo, sembra che praticamente è come che uno accende la radio, no? Accende la radio, chiama, non risponde nessuno, dopo 2 secondi spegne. E quindi non c'è la coincidenza, capito, per sentirsi. Non sente l'altro che chiama 2 secondi dopo, capito? Perché è già spento. Ma no, già che non è così, ma c'è cos'è, che secondo che risponde quella persona non vuole parlare con l'altra, ecco cos'è, non è così, capito? Non è così perché io ho risposto molte volte a qualcuno e qualcuno poi o l'ho chiamato io e non risponde, lascia perdere, va. Ah, così, beh, quella è anche, beh, qualcuno infatti chiamava a voce, poi 10.000 portantine, premeva uno, per quello chiama, preme uno, preme l'altro, come dire, noi siamo qui, però nessuno rispondeva alla chiamazza. E lo faceva quando chiamavano un po' tutti, che chiamasse, che ne so, Giulio, Gianni, io, qualsiasi persona chiamasse, facevano vedere le portantine, come dire, noi siamo qua, però nessuno rispondeva alla chiamata. E allora la conclusione è che la 27 è finita, è proprio. Ma è così, cioè, entrano solo quando vogliono rispondere a determinate persone, può parlare con determinate persone. Ebbè, come segnale, appena siamo entrati io e Gianni, qua c'era un segnale che arrivava a 8, credevo fosse Natalino, invece no, un altro era. Premeva e non rispondeva, lo mandiamo avanti e non risponde. Poi quella portantina su di Luca, hanno due tocchetti, tac, tac, lo mandi avanti e non vuole entrare. Cioè magari ci sono 20 persone qua, ma non parla nessuno. E allora, Lampedisi Duccio. Infatti. No, io già mi metto a ascoltare da altre parti, non mi interessa. Non c'è più entusiasmo da parte di tutti, però, secondo me è così, non c'è più l'entusiasmo che c'era prima, perché prima c'era proprio l'entusiasmo, mi ricordo che non mi coricavo nemmeno, stavo fino alle 7 di mattina parlando a baracchino in macchina. Sì, pensa che è questo che è, PMR. Vabbè, spiega basso. Una volta nel 2010, ti ricordi quando un po' mi era venuta la vena di entusiasmo, uscivo apposta in macchina per modulare e andavo a San Francesco di solito, ti ricordi che siamo conosciuti lì? Sì, che me lo ricordo, Marco, a Puglia. Però già, ero più giovane, cioè nel 2010 siamo 2020, 2023, insomma, 13 anni fa ero più giovane, più attivo, più tutto, adesso... come dire, ci vuole più brio, non sei vecchio, ci vuole un po' più di brio. È anche vero che qua la situazione parcheggio è diventata veramente drammatica rispetto a 13 anni fa, è tutto passi carrai che prima non c'erano, uno attaccato all'altro, di botto l'hanno istituito in pare 3 o 4. Poi qua c'è il punteggio attualmente, vabbè, in macchina adesso non è quel discorso, l'antenna ce l'ho a casa, quindi posso modulare da qui, però certe volte davvero preferisco dedicarmi ad altro, perché magari non hai un discorso bello da portare avanti, capito? Il discorso non è che bisogna aspettare gli altri, ognuno deve impostare il suo, se ognuno imposta il suo discorso poi si va avanti. Quello è, Marco. A volte non se ne ha voglia, diciamo la verità, non se ne ha voglia e molti cercano la scusa, è arrivata gente o questo o quell'altro, perché non hanno voglia più di continuare a modulare. Hai capito cos'è? Io in linea di massima accendo sempre, ogni volta chiamo, anche quando è ieri, sono stato tutta la mattina chiamando dalla macchina, ho messo più tempo a montare antenne, a fare questo, a fare l'altro, e poi non ti risponde nessuno. Ha risposto Carlo per salutarmi, perché stavo uscendo, logicamente è entrato a salutarmi, mi ha fatto piacere. Però mi ha detto che dovevo andare a prendere la figlia, quindi dovevo uscire. E trago solo per salutarmi, boh, basta. E poi non si è sentito più nessuno. Ho aspettato un po', ero esattamente al parcheggio delle 15. Sì, la mattina, vabbè, per me è problematico, sarebbe veramente problematico. Non... per come i ritmi quelli a sonno io la mattina e non è... sono nell'oltretomba, capito? Di sera, vabbè, più tempo, ma... Ehi, Marco, non si tratta di andare di sera, si tratta del fatto che gente ce n'è sempre poco. Perché è l'estate, Giulio, Marco. Tutti al mare a mostrare le chiappe chiare? No, non ci credo. All'ascolto ci saranno almeno 10 persone, almeno. Ma guarda che anche in altre bande così mi si sta... Io ho sentito gente che si lamentava anche in altre bande. Diceva che la gente stava diminuendo, non era più come prima. Anche amatori, radioamatori. Scappa, però sui 40 metri qualcuno c'è sempre. Io faccio ascolto e sui 40 metri c'è sempre gente. A proposito, l'altra volta, dopo tanto, ho attaccato il ricevitore HF. Sono andato in 20 metri. Non vero un'anima, sì, forse un tedesco, che ne so, ma sono allora in 7, ma in 40 metri, no, 7 megahertz, un mortuorio, mai sentita così. Poi dopo 7100 c'è sempre gente. No, tutto, ho fatto da 7000 a 7200, no. Ma quella sera, quel pomeriggio, era veramente un mortuorio. Ma io ascolto sempre i contest, anche queste o locali. Di diverse parti, da Roma, Milano, eccetera. E intanto che mi ascolto questi consigli, mi guardo il telefono e mi distrago così. Sì, i contest magari un po' pallosi, ripetitivi, no? Giusto per sentire che paese riesci a ascoltare, vabbè. I discorsi locali li preferisco, almeno senti gente che chiacchiera, in italiano soprattutto. Beh, anche io preferisco discorsi che questo, sì, così conte, ma comunque li ascolto tutti bene, no, proprio per sentire come li ascolto, capito, se riesco a ascoltarli bene. E vi dirò che li ascolto tutti bene, c'è qualcuno più basso, però sempre a livello di 7, 9, 10, 9. Sì, peccato che l'antenna del baracchino non è isolante. Sarebbe, vabbè, dalla macchina avevo un'antenna isolante, però appunto devo uscire in macchina e una seccatura. Però vedi, tu basta che ti metti dalle parti alte, scale in sciocca, tipo o dove c'è quel campetto sportivo, dopo il centro ecologico lì, no? Con l'antenna risonante devi sentire, senti quello che a casa non senti, tiri fuori i segnali, perché è proprio l'antenna risonante, è fatta per quella banda e inoltre lì sei in alto, e allora è vale la pena. Guarda che io l'ascolto, lo faccio con l'antenna del baracchino e ascolto benissimo, non bene, benissimo, proprio lo ascolto perfettamente. Vabbè, sì, un pezzo di ferro, meno male senti, però se avessi tu un'antenna risonante, che ne so, per i 40 metri, proprio dedicata solo per i 40, risonante, sentiresti già le differenze rispetto alla 5 ottavi, già. Sì, vabbè, ma io mi accontento perché ascolto bene lo stesso, non so spendere altri soldi, mi ascolto già abbastanza per queste frequenze di soldi, mi basta così. Sì, infatti, ti ricordi che mi ero innamorato già del 3900, no? Quello con la scheda moderna. Però ho detto, ma che pro, avere imbarazzi in casa ancora di più, di quanti non ne ho. Ma è una passione, Marco, quello è passione, ti piace avere gli apparati innovativi, eccetera, eccetera, però se guardiamo la gente che c'è non ne vale la pena, questo sì. Sì, ma per esempio di sera una volta entrava a coso, ti dico di quelle sere, entrava, che ne so, di vicinanza a Franco di Sorso, anche coso Uranio da Zaosilo, entrava una cosa da Muros, con padre o figlio, bene o male entravano, però è da un po' che si è molto molto scremata, c'è stata dispersione, o non ne hanno più voglia, oppure sono migrati per altre bande, non te lo so dire. No, coso più arrugginito, più arrugginito va a fare di ex, si riporta a fare di ex oltre le bande, diciamo, oltre i 40 canali, va a fare di ex in banda laterale, poi qualcuno si è disperso, non si sa che fine ha fatto, non lo so, però intanto quella è la situazione e quella rimane, se non cambia la situazione qua è un casino, è un bel casino. Poi vabbè, chi entrava, Antonio adesso deve pensare alla famiglia, eccetera. Ah, poi aveva trovato lavoro Antonio? Antonio è precario, non è fisso, è a chiamata, ha trovato lavoro a chiamata, quando lo chiamano va, capito? Poi non sa più entrato perché c'ha il bambino, deve pensare anche al bambino, aiutare la moglie, quindi per il momento, sai come tu non hai avuto mai i bambini e quindi non lo sai, ma la donna dopo che partorisce praticamente può avere degli stati di cose di, diciamo, di nervoso, di depressione, capito? Si chiama depressione post-parto. E quindi bisogna anche aiutarla se non li vengono questi stati qua. Sì, infatti, è finita l'epoca del marito, solo che deve mangiare, prendersi il caffè dopo pranzo, no. Bisogna dare una mano perché se viene davvero la depressione postpartum, quella brutta, guai. Guai. Devi badare a due persone anziché a una, capito? Luca, di qualcosa tu. Sì, ma a volte fai, anche se fai il massimo per quella, a volte la donna si deprime così tanto che tu puoi fare il massimo, no? Capito? Naturalmente devi anche lavorare, poi torni a casa, avvi così e devi aiutarla e ti deprimi tu pure. Avvi. Lo sai cos'è? Specialmente col primo figlio hanno sempre la paura di non farcela, capito? Ti viene questa depressione, hanno paura di non farcela e cosa, ma non è il caso della moglie di Arturo, però è meglio sempre aiutare perché possono cadere in queste cose qua, capito? Invece quando è un figlio piccolo, ed è il primo, solitamente può succedere. Sì, per parlare poi del parto, il travaglio del parto, guarda che per la donna è terribile, è una cosa, è uno sforzo, una sofferenza notevole. L'uomo parla, l'uomo ci mette il semino e basta, però è la donna che fa il 90% del lavoro. Ma se il seme non è buono, non attecchisce. Mia moglie diceva deve trovare anche il terreno buono per attecchire. Immagina se poi anche l'uomo rimane incinta, ciu, mamma mia. Ma poi domanda, da dove uscirebbe? Dal questo o da davanti? Sì, non basta tutte le lotte che stanno facendo per avere in adozione i bambini, lui ogni casino. Comunque la cosa il fatto dell'adozione è una cosa troppo, c'è troppa burocrazia. Io un amico che voleva adottarlo, quando l'ha visto così ha mollato, perché troppi documenti, devono fare riunioni, questo, quell'altro, ma io cazzo, se vedi che c'è una coppia che ha tutta la voglia di avere un figlio da glielo, cazzo, ce ne sono tanti bambini buttati negli istituti e fai tutte queste storie per avere un bambino, va? Ma infatti alla fine se uno guarda queste cose, allora quando nascono devono subito guardare che lavoro hai, che se lavori tutti e due, se no te ne lo prendo, scusa, invece non succede questo, però se lo devi adottare devi avere mille lavori, devi avere una casa tua, devi avere guido, l'altro, ma scusa, e quando nasce è normale, in una coppia normale che lavora solo lui, allora cosa devi fare? Lo devi prendere perché se no non sono in grado di camparlo, ma scherziamo. Ma infatti sono delle leggi burocratiche che rovinano tutto, perché sennò bambini adottati, sai quanti ce ne sarebbero stati in più? E a voglia. E la voglia non le poteva avere i figli, lo voleva a tutti i costi questo bambino. Quando hanno visto tutte queste storie e hanno rifiutato una cosa, hanno rifiutato l'altra, alla fine ci sono rotti, capito? È un po', buonasera, è un po' come la moda del cane. Prima loro manifestano tanto amore e poi il cane l'abbandona. A quella gente lì non deve volare già nei bambini, perché quelli che si fermano solo perché devono fare una serie di documenti, quella gente che non lo prende per amore un bambino, quello lo prendono per gusto o meglio per moda, lascia perdere. Buonasera a tutti e scusate l'entrata così. No, hanno mollato non perché dovevano fare i documenti, Giulio, forse è capito male, perché hanno rifiutato certe cose e alla fine si sono arrisi, capito? perché deve avere, come ha detto Luca, deve avere tutte queste deve avere tutte queste cose, lavori in due, deve avere una certa entrata, eccetera eccetera, e hanno rifiutato alcune cose, loro si sono rotti la scatola e non l'hanno più fatto. No, perché tu ci spiegate in un altro modo prima, ed è per quello che io ho detto quello, loro lo farebbero per moda o per sport, o come decidilo tu come lo vuoi giudicare, un po' come fanno per i cani, no? Prima se lo tengono tutto l'anno, poi arriva il momento delle ferie e abbandonano il cane, ma questo amore per gli animali, e così farebbero anche per i bambini, lascia perdere, a parte il fatto che per conto mio il bambino deve avere sempre un padre e una madre, perché è una vergogna che due uomini oppure due donne devono avere un figlio, due mamme e due babbi, ma dai, lasciamo perdere. Ciao Luca e ciao Marco e ciao Gianni, avanti Luca. Ciao Giulio, ciao, buonasera. Io sono d'accordo con te. Chiamalo razzismo, chiamalo come te debbiasi, io sono d'accordo con te su quell'atto lì. Eppure vedi la Chiesa e il Vaticano cosa tutto dice invece. Cosa ci vogliamo fare? E il mondo sta andando a casino in questo modo. E la Chiesa dice il bambino deve avere un padre o una madre, non può andare in quella maniera, dai. Non è questione né di essere moderni, di essere antichi, di essere razzisti, assolutamente. È una questione della natura, perché chi fa i figli sono le donne, inutile stare lì a rompere l'anima e andare a comprare un bambino così, come andare al supermercato, perché magari ce lo si è fatto fare da un'americana, da una straniera, ma lasciamo perdere, che sono cose vergognose solo a sentire dire. Vai Marco. Sì, non so, è strano, ma poi anche penso a scuola, cosa gli diranno, prenderanno in giro, sai che adesso due madri, che ne so, se i bambini sono cattivi, gli vanno a dire magari sai due padri ricchioni, sai due madri ricchione, non lo so. E comunque sì, ci vuole la, secondo me, la figura maschile e femminile, come per natura. Poi vabbè, di queste cose strane, comunque guarda che stanno calcando la mano con queste questioni arcobaleno, per esempio nelle scuole, queste scuole montessoriane che ho sentito nominare, non ho approfondito, anche lì li mettono in testa ai bambini abbastanza giovani, piccoli insomma, che lo decidi tu cosa essere, come essere, se essere maschio o femmina, e poi vedevi che tra bambini e bambine si pitturavano le unghie delle mani a vicenda, ma stiamo scherzando, qua stiamo facendo una specie di... Ma per carità, ma guarda, innanzitutto bisognerebbe educare bene certi genitori, è una vergogna, ragazzi. Addirittura l'altro giorno ho sentito alla televisione un bambino di 3 anni che secondo la madre manifestava orientamento sessuale, e allora cosa ha fatto? Gli ha fatto fare una cura di ormoni, perché questo che era una bambina, gli ha fatto fare una cura di ormoni per fargli crescere la barba eccetera eccetera. Ma quando mai deve essere così deficiente? Con quale diritto tu, anche se sei genitore di questo bambino, ti permetti di fare una cosa del genere? Se una cosa ci dovrebbe essere, se ci dovrebbe essere una differenza di sesso eccetera, lo dovrà decidere lui da adulto. Ma tu guarda per parlare, dai, che deve venire il genere. Di una bambina di 3 anni, ma vuoi scherzare? Dai, che sono cose vergognose a sentire certe discussioni che fanno oggi, soprattutto da parte della sinistra, quei disgraziati che si hanno mangiato l'Italia, adesso si vogliono mangiare anche le persone. Vai Luca. Tutto a rotoli sta andando, eh? Ciao Sant'Anche. Oh yeah, si sa famoso. E' qua. Quella prima di giudicarla bisogna aspettare la magistratura che cosa ne pensa, se effettivamente è così o se sono solo questioni pubblicitarie da parte della sinistra sui giornali di sinistra, perché tu leggi i giornali di sinistra e ce l'hanno contro, leggi i giornali di destra e invece sono favorevoli a Sant'Anche. Poi il fatto che lei debba veramente 2 milioni e 700 500.000 lire allo Stato, se effettivamente è vero, si dovrebbe innanzitutto subito vergognare e dimettere, questo senza dubbio. Però tutto questo deve avvenire poi dopo un'indagine fatta dalla magistratura, non è che lo può decidere la gente così per sentito dire in televisione o letto sui giornali. Vai Gianni. Si è sentato Gianni o Giulio. Ma stai tranquillo che se è vero tutto quanto, poi se è vero, ripeto, insabbiano tutto, insabbiano tutto, non fanno sapere niente alla stampa e già lo sanno loro come risolversi le queste cose. Sì, ma questo d'accordo, quello fa sempre parte dell'onestà intellettuale, soprattutto da parte che di chi amministra. Se effettivamente in difetto bisogna che si rimetta subito, però prima di tutto bisogna chiarire la situazione, e chi chiarisce la situazione è sempre la magistratura, ma oggi anche della magistratura non ti puoi fidare, visto e considerato che sono principalmente tutti di sinistra, ce l'abbiamo visto tutti, tipo il sistema Palamara, ultimamente già l'abbiamo visto cosa era successo per Salvini e compagnia cantante ed altri. Vai Marco. Sì, quella non l'ho seguita tanto questa cosa della Santanchè, però appunto della somma, Giulio poi ti è sfuggito, 2.700.000 lire, euro volevi dire. Vabbè, sì, poi la magistratura, vabbè, fatta di uomini, i giudici, ma uomini alla fine sono tutti schierati politicamente, o da una parte o dall'altra. Non c'è un giudice veramente neutro, capito? Tenderà, secondo me, a fare propendere la sentenza a favore del proprio pensiero politico, lasciamo perdere, quindi là c'è già un vizio nel giudizio, capito? Sì, ma quello sì, è chiaro. Sì, ma è così, però non bisogna rischiare di nuovo un sistema Palamara, come hanno fatto per Salvini, come hanno fatto per tanti altri, e come hanno fatto per la buonanima di Berlusconi, eccetera, eccetera. Poi che loro siano stanchi di santo, questo non lo dico nemmeno io, ci mancherebbe altro, però sempre la magistratura che deve sempre indagare, vedere e giudicare. Però la magistratura deve essere onesta, non fare quello che vogliono, perché già le abbiamo sentite le dichiarazioni poi di Palamara, l'ex magistrato, cosa diceva appunto, Salvini dice ha ragione, però bisogna condannarlo ugualmente, ma vuoi scherzare? Ammesso che abbia fatto male o fatto bene, questo non significa che tu lo devi condannare per forza, anche se lui ha ragione, sono cose vergognose da ascoltare, da sentire. Vai Luca. Ma infatti cosa di Pietro e cosa che stava facendo bene, tipo Borsellino così, e vedi come subito li fanno fuori, o si rimettono o li fanno fuori, perché stanno facendo del bene e non va bene per altri. Ieri c'era in televisione, non so se l'hai visto quel programma, dove appunto stavano parlando per esempio del lavoro nero, del reddito di cittadinanza, che i giovani stavano dicendo non trovano lavoro, e però altri stavano anche dicendo, difendendoli, dice se tu li dai a un ragazzo, lo fai lavorare dalle 12-14 ore e li metti in tasca 700, 1000 euro, 1100 euro, ma che cosa pretendi? Che la gente venga anche a lavorare con quella cifra lì? Io sono d'accordo col lavoratore, allora finché vi fai fare le mie 8 ore, ok, 1.300, 1.400 vanno bene, minimo, che poi uno stipendio base, a mio avviso, oggi come oggi dovrebbe essere non meno di 2.500 per avere una dignità e per comprarsi una macchina, per potersi comprare, farsi un mutuo, oggi come oggi, il mio punto di vista è 2.500 euro il salario minimo. E poi stavano dicendo, ma se noi diamo 2.000 euro al dipendente, dice, lo sa che ne paga oltre 4.000 l'azienda? Sì, ma allora io ne devo prendere 1.000 perché l'azienda casa ne pagherebbe solo mille qualche spicciolo in più, la tassa e tutto. Dice, ma ci rendiamo conto dove stiamo arrivando? Ed ecco lo schiavismo, 14-16 ore al giorno per 1.000 euro, e poi si lamentano che non ci vogliono andare, ma non ci andrei neanche io a lavorare quando mi presenti quel conto lì. Ma diciamo che ci sono tanti punti da chiarire. Innanzitutto loro dicono, noi non possiamo vivere con uno stipendio di 1.000-1.200 euro al mese. D'accordo, e sono d'accordo anch'io su questo ragionamento che fanno certe persone che dovrebbero lavorare. Però come fai allora, se non riesci a vivere con 1.200 euro che ti danno uno stipendio, come fai a vivere con 600 euro del reddito di cittadinanza? Primo punto. Allora sei proprio, o stai andando a rubare o stai facendo lavoro in nero. Ecco, questo è il primo punto. Secondo, i salari così bassi, la colpa è sempre, ricordatevelo sempre, è sempre dei sindacalisti, perché chi definiscono i contratti nazionali sul lavoro con i governi da 30 anni a questa parte sono sempre i sindacalisti, che sono loro che firmano il contratto nazionale, e giustamente le aziende poi danno quel salario lì. Se invece fossero stati i sindacalisti un pochino più bravi, più intelligenti e soprattutto più a favore dei lavoratori, probabilmente il lavoratore avrebbe preso uno stipendio più alto. Invece si fanno solamente politica, si fanno e basta. Perché? Perché sono tutti uguali, sindacalisti, politici, eccetera, eccetera. Capito? Poi il discorso dell'azienda, si sa, se tu all'azienda gli imponi di dare una certa cifra, gli dovrai innanzitutto abbassare le tasse, perché dipende da 1.200 euro, te ne devo dare poi 2.500 complessivi con l'assicurazione, con tutto, e questi 2.500 io li devo togliere da sopra il lavoro, dal lavoro che tu mi hai aumentato tutti i materiali, tutte le prime cose, non è possibile poterteli dare. Ecco qual è il discorso, Luca. Avanti Marco. Sì. E lì vabbè, non entro nel discorso perché lì i sindacati ne so poco di quella roba lì. Io quando ho capito però i sindacati praticamente proteggono loro stessi, si auto tutelano, come dire, il sindacato serve al sindacato, basta, non ai lavoratori. E infatti il sindacato si batte solo e esclusivamente per la loro poltrona, non certamente a difesa dei lavoratori, perché sono balle che i sindacalisti hanno difeso sempre e difendono i lavoratori. No, i lavoratori li istigano e basta a fare manifestazioni. Perché? Perché loro così si rinforzano la loro posizione, la loro poltrona. Tanto è vero, poi da sindacalisti diventano politici anche loro, e dunque entrano nella mangiatoia anche loro. Avanti Luca. Sì, ma poi c'è anche da fare un altro ragionamento. Cioè io dico la mia, no, 2.500 euro, ok, però dietro a questi 2.500 euro, oltre che al raddoppio che ha l'azienda da pagare, ok, giustamente dice, ma se io do 2.500 euro a te, quel prodotto che tu in azienda mi fai, mi costruisci o fai, quel prodotto io poi lo dovrei aumentare, e lì è lo stesso, è tutto un giro, perché giustamente il gelato lo dovrei aumentare, la pizza la dovrei aumentare, per far sì che mi rientrino quei soldi da poter mettere, dare a te 2.500 euro. C'è anche quello discorso, ma la colpa mica è del dipendente se lo deve fare il problema, o il datore di lavoro. Le leggi devono cambiare, le leggi anche, e dare più aiuti, perché il prodotto poi deve essere quello. Però io dico, se aumenti tutto quanto, ok, l'economia aumenta, se tu gli stipendi tieni sempre gli stessi ma aumenti il prodotto, cioè come ieri appunto stavo dicendo in televisione, ma come, a quello gli continui a dare 1.100 euro, 1.000 euro, 700 euro per farti 14 ore, però tu quel gelato l'hai triplicato quest'anno, quella pizza l'hai triplicata, quindi sto parlando dei centri sulle spiagge, no? Dei bar sulle spiagge, ristoranti. E stavano dicendo quello, però a quello lì tu gli dai sempre quello stipendio lì. Allora c'è qualcosa che non quadra. E infatti chi ci perde è sempre il laboratorio. Però ripeto ancora una volta, chi deve essere difeso è proprio il laboratorio da parte dei sindacalisti, perché sono i sindacalisti che devono imporre al governo certe leggi e certi salari. Ma se poi invece loro si mettono d'accordo a 9 euro all'ora, come stanno chiedendo adesso, tiene presente che 9 euro al momento sono lordi, il che significa che in tasca alla busta paga vanno 6 euro e qualcosa, vanno, perché gli altri sono tutti di tasse, il che significa che diventa un stipendio di 1250, 1240 al mese mensile. Poi per quanto riguarda il fatto delle ore, è sempre il sindacato che deve imporsi, cioè il lavoratore deve fare, per dire, 7 ore, 8 ore al giorno, non 14 ore come pretendono certe aziende, nella maniera più assoluta. Se tu a me mi fai fare più ore, o me li paghi come straordinario, e allo stesso tempo lo Stato applica le tasse anche sugli straordinari, o perlomeno tu vieni denunciato, devi essere denunciato, tu non puoi andare contro la legge. E il fatto che, siccome in Italia è tutto un magna magna, è una specie di ruba qua, ruba là, per cui ti puoi immaginare, loro gli statali rubano dallo Stato, le aziende rubano il sacrificio dei lavoratori, i sindacalisti rubano a loro volta per farsi la loro poltrona sempre più morbida, e così via, lasciamo perdere, dai, la colpa si è poi alla fine che ci perde sempre il povero lavoratore. Vai Marco. Sì, è un magna magna, sì. E comunque certe aziende, adesso proprio riguardo a quello che ha detto Luca, no? Il prodotto, dice, lo devo aumentare di prezzo, no? Se pago di più i lavoratori. Ho visto che alcune aziende stanno facendo un trucchetto per quanto riguarda il settore alimentare, no? Magari non volendo far capire ai clienti che comprano che il prodotto costa di più, ti faccio proprio il coso dei gelati. Una confezione, che ne so, tale marca conosciuta, ti faceva una confezione da 6 gelati a quel prezzo lì. Hanno mantenuto adesso lo stesso prezzo, ma hanno diminuito il contenuto delle confezioni, che se uno magari prima magari non lo sapeva che conteneva, che ne so, 6 gelati, adesso le confezioni costano uguali ma ce ne sono 5. Capito? Stanno mascherando così al cliente finale il fatto che la roba costa di più, costa uguale a prima, però prima ce n'era di più e adesso nelle confezioni nuove ce n'è di meno, quello per far fronte alle tasse o ai salari delle persone, per pagare i salari alle persone. L'economia è una bella rogna, L'economia è una bella rogna, appunto, però alla fin fine quando si fanno si tirano le somme totali, sempre che ci perde del poveretto, cioè quello che vive dal lavoro soprattutto manuale, e sempre quello è il discorso. Per cui dovrebbero cambiare le leggi, dovrebbero essere più sia come governo, sia come sindacalisti, sia come aziende, e soprattutto devono essere più onesti anche i lavoratori, non quando sei sul posto di lavoro, ad esempio una donna, dopo che sei stata assunta, dopo 15 giorni ti deve assentare perché sei rimasta incinta. Ma vogliamo scherzare? Ma cosa stai dicendo? Caspita, però ti ritrovo magari in giro, incinta grossa, non incinta dall'inizio, incinta grossa, facendoti le cose tue, in giro e passeggiando e guidando la macchina e facendo sforzi non indifferenti. Ma guarda, l'Italia è tutta da rivedere, è un macello, non venuta da qua. Il discorso è sempre quello, ci vuole più serietà, e questa serietà da dove deve partire? Dall'alto deve partire, dalle istituzioni soprattutto, perché non è possibile continuare ad andare avanti così, se no il debito pubblico aumenterà sempre, continuamente, premesso che in questo periodo sta scendendo per effetto di questo governo come sta amministrando adesso. Tieni presente che siamo adesso al massimo dell'occupazione dei lavoratori, perché mai in Italia ci sono stati, nonostante che abbiamo meno abitanti, che se ne stanno andando tante persone all'estero, in Italia ci sono più lavoratori, o meglio più posti di lavoro occupati da sempre, e cioè 23 milioni e 400 e tante mila di lavori, cosa che prima non arrivavano, a malapena 18 milioni arrivavano, per dirti, questa è la situazione. E poi mi vengono a dire, Meloni sta facendo male, Meloni sta facendo bene e male, come tutti i governi del mondo, non solamente di quelli che ci sono stati in Italia. Avanti Luca. Si è rientrato anche Gianni. Sì, è così, ma io dico pure, no, ma perché non cambiano le leggi? Cioè, tu prendi l'operaio, ok, all'operaio obbligatoriamente per legge tu gli devi pagare un'assicurazione, giusto? Ok, basta, solo quello. Poi se l'operaio, io ti do all'operaio, gli do, non so, 2000 euro, 2500, ok, all'operaio gli do 2500 euro, se poi l'operaio non se ne versa di contributi, quelli saranno affari suoi, ok? Quelli saranno come un artigiano, ok? Come fanno gli artigiani? Quelli saranno affari suoi, però intanto risparmia l'azienda, ok? Anche se da 2000 euro all'operaio, se poi l'operaio, o 2005, se poi l'operaio se ne verserà di contributi, ne avrà di pensione, se non se ne verserà saranno affari suoi, ma almeno è un discorso che sarebbe anche valido. Però un'assicurazione obbligatoria dall'azienda, secondo me è un giusto compromesso. Poi sono affari loro, se se ne versi, intanto anche se contributi ne versi l'azienda, arrivi a una certa età, o vai in pensione di cosa? Di invalidità, oppure crepi e non ti dà ciò che hai versato per 30 anni, alla fine dove è la convenienza? Allora, se me ne verso ne avrò, se non me ne verso i contributi non ne avrò. Avanti Gianni. Io mi sono fatto una bella doccia, scusate se non vi ho avvisato prima, ma mi hanno chiamato che stava venendo gente, quindi mi devo far trovare pronto, rendere il biglietto. Sì, ho sentito il discorso. Certo che molta gente non vuole assicurare perché praticamente deve pagare il doppio di quello che deve dare a un operaio. Quando lo assicuri devi dare, se gli dai 1.500 devi dare 3.000 perché l'assicurazione la devi pagare, e quindi guardano anche quello, molti non ti assicurano per quello. Ma soprattutto perché ci sono anche delle categorie nella classe lavorativa, ci sono gli apprendisti, ci sono gli operai, eccetera eccetera. Tu non puoi assumere un apprendista e pagare le stesse tasse che paghi per un operaio, tanto vale mi prendo un operaio, almeno quello, se non altro io lo metto a lavorare e mi rende, mentre invece un apprendista che cosa mi fa? Le do la scopa in mano per pulire il laboratorio, quello devo fare, ma non posso pagarlo con gli stessi soldi che pagano l'operaio, o quasi, per dire, anche quello c'è da considerare. Insomma, è tutto una questione di organizzazione, ma organizzazione in Italia non ce ne sarà mai, perché l'italiano è fatto in questa maniera, così, alla refusa, così, chi ha più forza grida e ottiene, chi non ne ha di forza muore di fame. Avanti Marco. E comunque per gli apprendisti delle agevolazioni ne stanno dando. Non ho capito già, cos'è questo? Ho detto che per gli apprendisti danno anche certe agevolazioni, paga magari la metà la paga il governo, l'altra metà la paga il datore di lavoro, ci sono diversi tipi di contratto che stanno facendo, capito? Sì, ci sono dei momenti che magari, che so io, per 10 mesi, come di tanto in tanto succede, che danno un contributo all'azienda per mantenere quel lavoratore, però magari quell'azienda furba dopo.